Pablo Picasso, raccontato da Marco Carminati. Attratto dalla grande tradizione dei balletti russi, Picasso si mette a frequentare questo ambiente e in questo ambiente conosce una ballerina dei balletti russi, Olga Koklova, che diventa la sua amante e diventerà anche sua moglie. Con questa donna Picasso ha un figlio, il piccolo Pablo, e a un certo punto questo bambino, crescendo all'età di 3 anni, diventa il soggetto di un quadro straordinario, uno dei quadri più teneri e intensi che il padre Pablo Picasso dedica a uno dei figli. Si tratta di Pablo Picasso abbigliato come Arlecchino, un dipinto del 1924 che si trova oggi nel Museo Picasso di Parigi. Perché è un dipinto interessante? Intanto perché il bambino è dipinto nell'aspetto di Arlecchino. Ora, la figura e la maschera di Arlecchino è uno dei temi che più ha affascinato Picasso. Noi conosciamo moltissimi quadri con questa tematica, perché la figura di Arlecchino era una figura ambigua, una figura di bene e di male, una figura di allegria ma anche di sensibilità e soprattutto di intensità brutale. Quindi è una figura che Picasso amava molto e che è stata molto studiata anche da questo punto di vista. Il quadro è impressionante anche perché è dipinto, siamo nel 1924, con una perizia tecnica degna di un pittore fiammingo. Il grande Pablo Picasso, che aveva già distrutto la tradizione pittorica con il suo periodo blu e periodo rosa, che l'aveva fatta letteralmente a pezzi con il cubismo, si dimostra uno degli artisti più capaci di realizzare opere d'arte nel senso tradizionale del termine, cioè della figuratività. Ma noi restiamo incantati davanti allo sguardo un po' assente, stornato rispetto al chi guarda, di questo bambino che dovrà e avrà l'incombenza non certo facile di essere il figlio di una delle personalità più eroenti ma anche più difficili del Novecento mondiale, cioè di Pablo Picasso. Pablo Picasso, capolavori dal Museo Nazionale Picasso di Parigi, dal 20 settembre al Palazzo Reale di Milano. Info radio24.it